Siamo tutti nervosi, ma tra poco si parte. C'è qualcuno che dice, e gli trema la voce, che la terra ormai è morta, non si può restare. E la gente si accalca, che fa pena guardare. Voglio un questo è il mese di aprile e la terra non nasce, sta per morire. E questo è il treno che viene e va, un nuovo treno che binari non ha. Copre distanze che conosco di già, spazio che ho dentro, agilità. E vedo pianeti per me verità, scopro segreti, sconosciute città. Io sono in viaggio anche dentro di me, e se fuori è universo è l'immenso in me. Che c'è? Primo viaggio su Marte, quando il treno è partito, io non ho respirato. C'è un bambino che chiede come il mondo è finito e chi l'ha costruito. E la gente non parla, non sa più cosa dire, forse per non mentire, dentro morire. Primo viaggio su Marte, questo è il mese di aprile, e la terra è lontana, sta per morire. E questo è il treno che viene e va, nuovo treno che binari non ha. Copre distanze che conosco di già, spazio che ho dentro, fragilità. E vedo pianeti per me verità, scopro segreti, sconosciute città. Se fuori è universo, è l'immenso in me. Che c'è? Che c'è? Che c'è? E questo è il treno.